631. Pasticcini di pasta beignet. Acqua, grammi 150, farina, grammi 100, burro, grammi 10, uova numero 3 e un rosso, sale quanto basta. Quando bolle l'acqua, versate la farina tutta a un tratto e rimestando subito aggiungete il burro e tenetela sul fuoco per 10 minuti, seguitando sempre a rimestarla. Deve riuscire una pasta dura che distenderete alla grossezza di un dito e pesterete nel mortaio insieme con un uovo per ammorbidirla alquanto. Ciò ottenuto, mettetela in una catinella per lavorarla col mestolo, aggiungendo le altre uova uno per volta, montandole chiare. Non vi stancate di lavorarla finché non sia ridotta come un unguento. Lasciatela in riposo per qualche ora e quindi mettetela a cucchiaiate, le quali riusciranno 10 o 12, in una teglia unta col burro. Frullate un rosso d'uovo con un po' di chiara per renderlo più sciolto. Dorateli e lisciateli con un pennellino, ma questo supplemento non è necessario. Poi metteteli in un forno che sia ben caldo. Quando sono cotti, fate loro col temperino un'incisione da una parte o in forma di mezzo cerchio nella parte di sotto per riempirli di crema o di conserve di frutta. Spolverizzateli di zucchero a velo e serviteli. Vi avverto che quando lavorate paste che devono rigonfiare, il mestolo, invece di girarlo in tondo, è meglio muoverlo dal sotto in su.